piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. No, no, Dani, dai, ti metto la mano in gol. Ti metto la mano in gol. No, Dani, ti prego. Ormai la macchina è andata. Oddio, ti prego. Natali, ti prego, Natali. Ti prego. Natali. Dani. Dani. Oddio, no, ti prego. Oh, l'acqua ci va, dentro casa. Ti prego. Devi chiedere scusa. Scusami. Scusami. Devi che quel figlio di puttana lo deve smettere. Scusami. Se non lo leggo io. Scusa, te lo chiedo io, scusami, ti prego. Ti prego. Dani. Ti prego, smettila. Ti prego. Ti prego, te lo chiedo io. Devi chiudere la bocca. Va bene, ti prego. Ti prego. Scusami. A me non me ne frega niente. Se non lo facevo. Se mi fregava, non lo facevo. Scusami. Se io non me ne frego un cazzo. Te lo chiedo io, scusa. Scusami. Scusa. A posto. Scusa. Mi piace di te che sei una vittima. Scusami. Quando scendi. Beh, basta, ma che stiamo esagerando, sennò la gente pensa che stiamo assistendo a una tragedia in diretta. In realtà questo è un video di quelli che girano in questi giorni, che racconta un episodio di buon vicinato. A Montesilvano un signore stava correndo, faceva la sua corsetta, si è accorto che il vicino lo stava riprendendo col telefonino, e quindi per fare denuncia di un improprio corridore, e quindi come vendetta comincia a sfasciargli la macchina. Si chiama Natali, già uno che si chiama Natali. La moglie disperata si affaccia e assiste a questo strazio in diretta. Il vicino che le sta sfasciando la macchina in maniera implacabile è la sua vendetta. Il marito non ha il coraggio di uscire, non ha il coraggio di prendersi il peso della propria responsabilità, e lei vede in maniera incredibilmente lancinante distruggere l'oggetto della loro felicità, che un domani li riporterà a spasso. L'altro implacabile continua a sfasciare la macchina, lei piange, lo prega, si dispera, ma ormai la vendetta è partita. Beh, questo è uno degli episodi, un episodio limite. Io ridacchiavo perché mi fa ridere il paradosso, mi fa ridere il dolore della donna, mi fa ridere la rabbia di Natali, mi fa ridere la vigliaccheria del riprenditore spione oscuro che non ha il coraggio nemmeno di uscire fuori a difendere la propria automobile. Ma questo può accadere perché in questo momento c'è un alto tasso di esasperazione nella vita di ognuno di noi, ma soprattutto c'è una profonda limitatezza dell'orizzonte individuale. Noi, per quanto sia, abbiamo sempre uno sguardo sul cortile, faccio una citazione. In questo momento lo sguardo sul cortile è l'unico angolo d'osservazione che abbiamo sul mondo che ci circonda. I nostri vicini, che conoscevamo, con cui avevamo rapporti più o meno buoni a seconda delle circostanze, che avevamo modo di incrociare le spade con loro durante le riunioni di condominio, oggi non li vediamo più. O li vediamo limitatamente alla comune capacità di essere reclusi. Quindi vorrei che oggi in 30 secondi mi raccontaste il vostro sguardo sul cortile. Io vi dirò il mio tra un istante e voi dovrete fare lo stesso nell'arco dei 30 secondi. Poi guardate che è un interessante esercizio. L'analisi di un microcosmo ci permette di acuire alcune nostre capacità di analisi, di osservazione, di riflessione. Abbiamo soltanto una piccola finestra aperta sul mondo delle nostre relazioni di vicinato. Una finestra che simbolicamente rappresento oggi chi mi segue su YouTube o dal sito di Radio 24 anche via video, sulla finestra del mio loculo che ho alle mie spalle, in cui si vedono soltanto altre finestre. E da quelle altre finestre ogni giorno, non perché sia spione di natura, perché non ho altro da fare, vedo i miei vicini, ascolto i miei vicini dai diaframmi di muratura che mi separano da loro, e ho tante cose da raccontare. Quindi anche voi chiamate all'800240024 e raccontatemi in 30 secondi la vostra finestra sul cortile. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800240024. Vi racconto velocemente quello che sono le mie impressioni. La via vicina di casa, quella del portone contiguo al mio, ad angolo retto rispetto al mio, non la vedo più da un mese, perché è un mese che io sto chiuso dentro casa. Soltanto giorni fa timidamente ha suonato alla porta di casa mia, perché avevo dimenticato le chiavi infilate nella toppa. Mi accade spesso, uscendo una volta in media settimana, mi accade anche in questo periodo soprattutto. Sento suonare, apro, non vedo nessuno, vedo soltanto uno spiraglio nel portone della vicina, buio totale dentro. Lei arruffata, scarmigliata, pallida, in tutta la ginnastica, mi indica con la mano le chiavi della toppa. L'ho ringraziata, ho immaginato che anche io probabilmente aprivo a lei nella stessa formazione di persona rinchiusa dentro casa. Non sento altri rumori se non quelli delle ore 18 che mi scandiscono l'orario preciso in cui la vicina del piano superiore, che so essere nota soubrette da televisione nazionale, inizia a fare la zumba o qualcosa del genere, perché saltella per un quarto d'ora forte, pesantemente. Immagino che non sia a piedi scalzi, terrà delle scarpe da ballo, qualcosa del genere. All'inizio mi dava fastidio questo suo saltellare. Ero anche tentato di andarle a bussare, cosa che non faccio mai, ma poi sarebbe stato frainteso in un provolonico indugiare, quindi non l'ho fatto. Rimango ogni giorno in attesa dello scandire delle ore 18, per me come il campanile della chiesa, la bella vicina del piano superiore, personaggio noto alla televisione che saltella per un quarto d'ora. Probabilmente fa uno di quei corsi online e si tiene in forma, è giusto che si tenga in forma. Poi che altro dirvi? Dalla finestra vedo di fronte tutto quello che posso vedere, ho centinaia di appartamenti a disposizione. Posso dirvi che domenica, mentre aspetto voi chiamate per i 30 secondi all'800240024, che vedo due Umarell che non conoscevo, coppia di marito e moglie Umarell, che hanno tentato la scalata del terrazzo condominiale. Erano sul terrazzo che stava all'ultimo piano del loro palazzo, molto alto, un palazzo probabilmente di costruzione fascista, erano i primi palazzi in cui veniva usato il cemento armato, quindi erano belli svettanti. E avevano conquistato il terrazzo condominiale, erano felici di quella conquista. La signora accennava ad alcune tentativi maldestri di esercizio fisico, era molto ridicola, poverina, se non l'aveva mai fatto in vita sua, o non lo faceva dal tempo in cui aveva l'ora di ginnastica a scuola. L'Umarell rimaneva nella classica posizione con le mani dietro la schiena e guardava l'orizzonte indefinito. Poi mi sono ricordato che da quel terrazzo, probabilmente essendo più alti di me, possono vedere la cupola di San Pietro. Avranno riflettuto sulla loro solitudine e sulla solitudine del Papa, che anche lui in fondo è un Umarell chiuso in un terrazzo condominiale, che magari è una cupola fatta da sommi artisti. 800240024, Franco, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Rilassati, parte il timer dei 30 secondi, diamo un tempo definito, così ci piace, più divertente. 30 secondi, comincia a dire quello che è il tuo sguardo sul cortile, qualcosa che hai osservato di cui non ti sei mai accorto prima negli anni in cui avevi a disposizione il colpo d'occhio sul tuo vicinato. Cosa hai visto e raccontacelo, cioè sarà una storia fantastica, vai. Allora, io le racconto questo, che sono sceso nel cortile col mio cagnolino e nel cortile c'è una panchina. Mi sono seduto sulla panchina e improvvisamente dalla facciata del retro del condominio si è affacciato un signore che da tanti anni non ci si salutava per questioni di siti politici. Questo è il miracolo del coronavirus. è già la seconda volta che succede. Allora, tu hai riacquistato la possibilità di salutarti con un vicino con cui avete litigato perché eravate come sì, Don Camillo sì. Peppone. Esattamente, esattamente. Vi conoscevate però, vi frequentavate prima? No, prima sì, all'inizio 10 anni fa, 15 anni fa sì. Poi la cosa si è deteriorata per questioni. Ma perché, qual era questa contrapposizione politica così aspra che oggi non esiste più, per cui non vi siete più parlati? Da che parte stavate? Dunque lui usciva di casa, ci si incontrava nel cortile per prendere la macchina e lui intonava una canzonetta del regime, no? Tipo Faccetta Nera? Faccetta Nera, Bella Abissina, no? Cosa tutte le mattine gliela cantava in faccia. E lei cantava Bella Ciao? Cosa cantava? Sì, difatti avevo registrato Bella Ciao sul telefonino e io gli passavo davanti alla porta. Aveva proprio l'impianto di diffusione audio. Vabbè, era divertente, scusate, movimentava un po' la triste vita condominiale. Avrei voluto avere io due vicini così. No, io avevo registrato, allora facevo partire un video di Bella Ciao, ce n'è su un miliardo sulla rete. E mi soffermavo davanti alla sua porta, gli facevo sentire Bella Ciao. E lui giovinezza poi quando gliela sparava invece, in che occasione? No, me le sparava nel momento che io scendevo, erano anche rari casi, comunque succedeva, che gli scendeva a prendere la macchina, ci si incontrava nel cortile e lui come saluto mi iniziava una canzonetta. Regime, vabbè, è una cosa bonaria, non ci vedo comunque, sembra più uno sketch da vecchia commedia italiana. E cosa è successo invece l'altro giorno? Vi siete salutati? No, appunto io ero seduto avevo il condominio retro in faccia e questo ha aperto la finestra perché abita al piano rialzato e mi ha salutato. Ciò che non succedeva da tanti anni. Ma col saluto romano o l'ha salutata in maniera civile? No, che ne so, visto la persona. No, perché io avrei alzato il pugno. Non finivate più però, così non finiva più. Comunque adesso come andrà avanti, quale sarà la conciliazione rispetto? Vi abbraccerete nel condominio? La differenza fra me e lui adesso è che io esco perché ho la possibilità di uscire visto che ho il cane, no? E lui invece è tappato in casa. Scusi, ma non può fare un gesto generoso verso il suo vicino fascista in linea di una distensione? Prestargli il cane e fargli fare un giretto col suo cane, almeno poverino prende un po' d'aria. Ma io gliel'ho proposto, a dire la verità, così bonariamente, no? Ma lui ha declinato, ha detto che... Beh, l'orgoglio, non può, è chiaro, non può cedere al nemico, capito? No, piuttosto si fa... Però magari, veda, glielo lascia attaccato alla porta di casa. Guerra, ha sotterrato l'ascia di guerra. Vabbè, quanti anni avete di media tutti e due? No, lui avrà una 72 anni, io ne ho 84. Beh, potete anche far pace, non è che si può continuare tutta la vita così. Da parte mia nel mondo nel frattempo sono successe tante cose, sì, dovreste rendervene conto. Queste qua sono delle boiate, tutto sommato. Sì, vabbè, vede, relativizza tutto. Michele, provincia di Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono a Frigene. 30 secondi, vai. Io ieri ci abbiamo avuto proprio chi è di Fregene, un gruppo di Facebook dove praticamente chi denunciava quello, chi denunciava quell'altro. C'è tutta gente che veniva denunciata perché andava in giro, perché faceva passeggiare e tutto il resto. E qui stiamo in un clima veramente di io dico quello che fai, dico quello che non fai, e praticamente non c'è più libertà. Cioè siamo controllati anche dai nostri amici, i nostri fidati. E c'è gente praticamente manda anche le forze dell'ordine a far fare multe verbali agli altri, ci dite anche sopra che praticamente vogliono domani. Allora, fermo un attimo, questo è un fenomeno che stiamo avvertendo a livello nazionale, me lo specifica. È chiaro che in questo momento chi viola le leggi di distanziamento sociale mette a rischio a repentaglio. Ma tutto. Il distanziamento sociale dov'è la linea? Se io sono da solo e non ho nessuno vicino, sto camminando per i fatti miei, cioè addirittura ci hanno chiuso la spiaggia, io pratico il surf, non posso andare in acqua a fare il surf, che io in acqua non so nessuno vicino. Sì, scusi, ma se tutti volessimo farci un giretto col surf, ricominceremmo da capo. Ma io abito a 50 metri dal mare e dice che posso andare a 100 metri dall'abitazione. Ho capito, però guardi, ricominciamo con l'eccezione di chi dice tanti io sono solo, c'è un deserto davanti. È chiaro che in questo momento, visto che adesso è un sacrificio comune, lei potrebbe anche rinunciare al suo surf, come io rinuncio di andare a fare la passeggiata a Villa Panfili, che mi sarebbe piaciuto pure. Detto questo, qual è l'operazione di sorveglianza dei vicini che lei nota? Cosa fanno? Fanno foto e poi le mettono sul gruppo Facebook? No, proprio praticamente, cioè, diventa un tantam. Da nord a sud di Fregene, come mettono quello, andato in giro, io ho visto gente di qua, io ho visto gente là, diventa tutto un casino che non finisce più, anche perché Fregene è una città praticamente estiva, e la gente di Roma, quelli che hanno le case, sono venuti via da Roma, praticamente uno a fare la vacanza a Fregene e gira. Ma quindi sono i doppia casisti, che seconda casisti, che vengono lì, sono romani seconda casisti, che hanno occupato Fregene. Qui c'è gente come fosse agosto, ma in realtà stanno lì, e che fanno? E i romani che fanno a Fregene quando stanno nella seconda casa? La passeggiatina, ogni giro, adesso poi sono chiusi tutti i ristoranti, tutte le attività sono chiuse, quindi saranno limitati al circondario di fare la passeggiata. Certo, è meglio fare la pandemia a Fregene che a Roma, sinceramente, detto fra me. Ecco, hanno fatto questo ragionamento, sì, però a un certo punto gli verrà anche loro voglia di tornarsene a casa, saranno problemi. Grazie, Armida da Firenze. Ah no, ferma Armida, devo dare la linea, fra un secondo Armida da Firenze. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te. E per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Ma che devi fare? Stiamo tutti dentro casa. Ma no, c'ho la videochiamata di yoga la mattina, la videochiamata. Ho capito, ma che fai? Più cose di prima così. Vabbè, ma domani alle 11 di mattina ci stai per buttare la mondezza? Alle 11. Alle 11? Dai, per favore, ma aiutatela, convincete, dai! Dai! Dai, lo vedi? È andata? È andata! Grazie. Grazie a tutti, ve voglio bene. Ho una particolare ripugnanza per i provoloni e i coatti, però questo devo dire, ammesso che il video sia vero, non sia tutto un fake organizzato, è riuscito ad aizzare tutto un androne condominiale che dalle finestre hanno fatto in modo che una poveraccia dovesse prendere appuntamento con lui davanti al cassonetto della spazzatura. Però magari forse a qualche donna piace anche questa coatta intraprendenza. Questo è un accadimento che noi abbiamo osservato attraverso la finestra sul cortile. Ringrazio innanzitutto Peter Bescapè che mi sta mandando in onda da Milano, Miriam Lucchetti in assistenza, l'enorme Sandro Fortunati che è un genio della tecnologia, per cui mi vedete, mi ascoltate, fate di tutto, e Fabrizio Intonti che sta comodamente a casa sua, però sta facendo egregiamente il suo lavoro e mi dà ogni direttiva possibile tramite WhatsApp. Questa è la mia condizione, la mia finestra sul cortile è alle mie spalle, la vedete dal sito di Radio 24, e oggi in 30 secondi ho chiesto agli ascoltatori di definirmi quello che è il loro punto di vista sul vicinato. E sentiamo, come promesso, Armida da Firenze. Armida, sei pronta? Buongiorno, prontissima. Pronta Armida, vai. Vai. Io sono fortunata perché non ho una finestra sul cortile, ma ho una finestra sulla piazza che dà sul Lungarno, splendida. Allora, per passare bene il tempo, ho messo degli altoparlanti sul terrazzo e ho diffuso samba, Frank Sinatra e tutto. I condomini sono felici, soltanto un signore ed una ragazza mi hanno telefonato avvertendomi che avrebbero chiamato i carabinieri. Io ho detto, come gente triste che siete, mandatemi i carabinieri, almeno ho dei ragazzi giovani in casa, sarà splendido. Armida ha messo in atto una tecnica provolonica ancor più raffinata del quattone romano che aizzava il vicinato per l'appuntamento galante davanti al cassonetto. ha frantumato le palle al suo vicinato con altoparlanti che diffondevano samba e musiche varie. La reazione, naturalmente prevedibile, del vicinato dice: chiamiamo i carabinieri. E è lì che aspetta gagliardi militi che varchino la sua porta e magari galantemente attentino alla sua virtù. È così, Armida? Magari. Ecco, va bene, di necessità si fa virtù, Armida. Non ho che fare complimenti bellissimo. Per la sua arguzia e la sua intelligenza. Prepari il nocino, certo. Prepari i biscottini, i baci di dama, si metta la colonia, dia una spolverata al pappagallo e vedrà che verranno i carabinieri e la faranno felice. Maddalena, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Pronta Maddalena? Vediamo che si è inventata pronta. Maddalena, vai. Allora, io volevo dire il mio sguardo sul mio cortile. È uno sguardo bellissimo perché ho tutti dei vicini fantastici. E allora volevo mandare un messaggio positivo in questo momento così difficile. Naturalmente siamo tutti in casa, quindi bisogna vedere un pochino il punto di vista e il carattere che abbiamo. Io ho un vicino che, non potendo andare a lavorare, suona molto il sassofono, mi chiede sempre se mi disturba e io gli dico che mi fa invece tanta compagnia. Dall'altra parte ho dei vicini. Quindi? No, quindi il sassofonista già mi sembra che sia un bel acchiappo. Poi? Poi ho gli altri vicini che verniciano gli infissi, così ho chiesto istruzioni per poterlo fare anch'io e mi hanno spiegato come fare. Sì, attenzione a non sbilanciarsi oltre il limite della finestra, perché se no, si scampa il coronavirus, ma non evita la frittata sul pavimento del condominio. Ecco, questo ecco fatto. Quello attenzione. Glielo racconterò la prossima volta. No, sì. Non sono cose che si raccontano di solito. Chi ci incappa resta lì come un gatto spiaccicato sull'autostrada. Sentiamo Valeria da Milano. Valeria, buongiorno. Sei pronta? Buongiorno Nicoletti. Pronta? Sento Pronto? Che succosa la sua occhiata sul cortile, vada. Allora, io mi affaccio dal mio terrazzo, che è molto piccolo però è delizioso, e ammiro spesso il giardino delle suore. È una parte coltivata orto. Il convento è un convento di clausura e ospita solo 9 suore. E ogni giorno le ascolto con piacere. Il suono della campanella, la loro uscita verso le 4, in cui pregano sommessamente, anche cantano, e io mi sono ritrovata a pregare con loro. Tutto ciò mi dà un grande senso di pace, di allora speranza. Valeria, non voglio urtare il suo sentimento religioso, ma di solito, secondo la letteratura classica, quando c'è un convento di suore c'è anche un mutolo, che è il giardiniere che si occupa di questo orto. Il mutolo nell'orto del convento c'è un giardiniere, un ortolano? È sparito da un po' di tempo, evidentemente, cioè anche lui forse non può lavorare, perché vedo o l'hanno l'erba sequestrato alta. Le suore all'interno del convento? Scusi? Lo hanno sequestrato le suore, può essere, perché il mutolo, come Boccaccio ci insegna, si fingeva muto perché le suore avevano la fiducia che mai avrebbe raccontato gli ortaggi che impiantava in quell'orticello, però lei non l'ha visto, quindi lasciamo la fantasia. Me lo fa notare, certo. Ed è sparito, e infatti c'è l'erba alta nell'orto e mi quindi nessuno proprio coltiva più, e quindi no. Cosa mangiano le suorine? Ah, bella domanda, io non lo so, perché comunque loro ma non hanno contatto con l'esterno. Ma nemmeno a guardare Nottetempo se uscisse magari qualche ortolano a dare 2 zappate alle zucchine, ecco. Non so, no? Beh, se avessi raggi infrarossi potrei, ma è vabbè, completamente però osserva, buio. Diciamo, è molto interessante, l'orto desolato del convento delle suore di clausura e da quelle erbacce che aggrediscono le derrate alimentari residue di quelle povere 9 donne, immagina quale sarà il loro profondo sacrificio, chiuse lì dentro, a pregare, a meditare e probabilmente a poco mangiare. Fabio da Bergamo, pronto? Sì, pronto? buongiorno Nicoletti. Vai, 30 secondi Fabio. Io abito al primo piano di un condominio e mi sono reso conto in questo forzato stare a casa di quanto rompipalle il cane del mio vicino. È una roba incredibile, abbaia giorno, notte no perché ha la decenza di tenerlo in casa, ma è veramente insopportabile, quindi io ho scoperto questo stando a casa. Cioè, cosa fa questa povera bestia? L'ho bruciata sul tempo, ma cosa fa questa bestia? Cioè, esce naturalmente a fare i suoi bisogni, perché allora, sarà l'unica occasione per il vicino di uscire. No, allora, questo il proprietario di questo cane se ne frega altamente, quindi lui lo lascia fuori tutto il giorno, incurante di questo cane, non lo fa mai giocare, non lo porta fuori a fare i suoi bisogni che fa nel giardino. E quindi questo cane, secondo me, è rincoglionito, perché non vede anima. Sì, è un cane impazzito, girerà come un poveraccio. È impazzito, Esatto, quindi abbaia al nulla, al niente. Guarda, se siamo fortunati, Ma non potete chiedere a questo vicino che abbia un comportamento più umano con il suo cane? No, è impossibile. A vederlo, perché poi suona il campanello ed è in casa, perché dove vuoi che vada, ma non ti risponde. Ma vive solo questo signore, vive solo? Sì. Sì, un ragazzo, ma il cane almeno gli dà da mangiare, ecco, questo sì, è importante. Sì, senti che gli versa le crocchine, gli versa l'acqua, e poi questo fra cane un po' provi, arriverà ai piani alti, diciamo, tutto l'effluvio delle, diciamo, dei residui di quel cane, che alla fine li farà, perché dai oggi dai domani diventa una montagna di residui canini con il giardinetto, quindi quando comincerà il caldo e noi staremo ancora dentro casa, verrà il problema, diciamo, della bonifica dell'area del cane, e quindi ci risentiremo, sarà un problema che affronteremo con degli esperti. Patrizia, provincia di Brescia, pronta? Sì, buongiorno. Vai Patrizia. Sì, grazie. E io abito in una palazzina al primo piano e siamo 6 famiglie. Purtroppo ci confrontiamo soltanto per litigare, e la signora del terzo continua a battere con un palo, non sappiamo se un martello, quella del secondo risponde a queste martellate verso le 6:30 del mattino, anche verso la notte. Niente, purtroppo vorremmo fare qualcosa tutti assieme, ma non è possibile in questo clima, perché è molto molto brutto. Allora cerchiamo di capire bene, perché quello che mi dice è inquietante. Sì. C'è un uso improprio del palo da parte di sue due vicine di casa, sì, contrapposto, nel senso diventa una sorta di guerra intestina, una fa rumore e l'altra risponde facendo rumore. Sì, è così. Ma non batteranno con lo spazzolone sul soffitto, sul pavimento, per farsi dispetti? Infatti sappiamo che quando ritorna una dal lavoro, verso le 6:30, la signora la vede ritornare, continua a martellare. Allora io oggi già mi sono svegliata al mattino. Ma che sport è martellare in casa? Cosa martella con questo palo? Perché anch'io sento battere alle 6:30, ma so che la vicina farà sicuramente attività fisica, perché è un battere ritmico di scarpette sul pavimento che mi sento addosso. Io ormai è diventata un'abitudine, ma quella storia del palo non la capisco. Perché battere un palo a casa? Neppure noi, purtroppo, adesso, essendo in questa epidemia, essendo dentro, come ha detto l'altro signore, cominciamo a sentire tutti questi rumori. Niente, adesso si è fatta una prassi, in un tempo dove è meglio essere tutti assieme, o forse possiamo mettere d'accordo per andare a fare le spese, quasi si litiga tutti i giorni, è così, purtroppo. È molto brutta questa cosa, Patrizia, vediamo se riuscite in qualche maniera a trovare una conciliazione fra queste due vicine, magari il palo potrebbe essere rivestito degli stracci, della gomma piuma, fare meno rumore, se per loro è indispensabile farne uso incessante in certe ore del giorno. Roberto, L'Aquila, pronto? Vai. Buongiorno Nicoletti, breve, telegrafico. 20 anni fa ho deciso di venire a vivere dentro un bosco. La mia casa è dentro un bosco, a 100 metri, a 200 metri dal vicino più vicino, a 100 metri dalla strada. Sono uscito solo 2 volte da quando è cominciata questa situazione. Nel frattempo ho costruito una cassapanca, sto costruendo una cassettiera, la mattina mi svegliano gli uccellini e non ho un cortile. Spero di non essere andato fuori tema. La ringrazio per avermi ospitato nella sua trasmissione e Una domanda da fare, buona compagnia che mi ha tenuto. Dove si procura il legname per costruire tutti questi mobili in casa? Da dove lo smonta? Le tavole chi gliele dà? Dunque, le tavole, queste che sto usando, provengono da una staccionata che ho smontato. Poi avevo una certa riserva, perché ho una sala hobby dove mi dedico a questi lavori, e poi ci sono alberi anche. Ah, quindi lei sarebbe disposto, diciamo, a segare degli alberi, trasformarli in tavole per continuare la sua falegnameria di bricolage. Beh, però questo comunque a volte sembra una... posso farlo con il permesso della forestale. Sì. Mi segnano gli alberi che annualmente posso tagliare e devo tagliare, e quelli riesco in qualche modo a riutilizzarli, non magari come assi, ma come, come materiale da costruzione. Che in casa ci mancano stuzzicadenti, non sappiamo dove andarlo a cercare. Lei che ha a disposizione una foresta da poter farne tavolato e costruire dei mobili fantastici, ha tutta la nostra ammirazione e la nostra invidia. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Oppan 50 oppan. Oppan. Oh oh. E nessuno l'ha già avuto a 81. Ho scartellato 57. Ho caffè, ora chi vuoi fare caffè? Fabio, qua vuoi? 42. Bravo, 40 euro, ho caffè, Vicenco. Oh. Anna, prendi il fucile e spari in bocca, dice, non so che stronzata. 26. Nanninella. Questa è una tombola condominiale. Sono organizzati in questo condominio, fanno la tombola condominiale, anche una maniera per divertirsi. Poi mi rendo conto che dai primi giorni in cui c'era l'appuntamento Canoro, che io mi sono permesso di dire che sinceramente la gente che cantava Siamo pronti alla morte tutti i giorni fuori dalla finestra di casa mia mi dava qualche pensiero, mi hanno detto disfattista, non è morepato, così adesso c'è un silenzio da tomba. Se non ci fosse la vicina che mi salta sulla testa tutti i giorni con la sua zumba, veramente fuori sembrerebbe di avere un obitorio. Quindi tutto sommato le abitudini cambiano, anche le socializzazioni, cambia anche il desiderio di osservazione. Immaginate che possiamo sentirci tutti in una cella, l'unico punto aperto verso il mondo, un piccolo spiraglio, e da quello spiraglio ci passa tutta l'umanità, tutto il mondo, il corso del sole, il cambio delle stagioni, i rumori, i sospiri, e dovremmo da quello spiraglio capire cosa succede fuori. Beh, è un esercizio interessante rispetto alla normalità in cui abbiamo davanti a 360 gradi un orizzonte sconfinato e siamo indifferenti, non vediamo i particolari, non cogliamo le sfumature. Adesso hai voglia di cogliere le sfumature, come ad esempio fa Lucio da Milano. Pronto Lucio? Ciao Gianluca, buongiorno, sono Lucio, uno dei tre moschettieri. L'anno scorso abbiamo procurato un camper a Giulia, non so se ti ricordi. Bravo, mi ricordo, una grande operazione, una signora senza dimora stava in un camper, Lucio riuscì a fare un'azione eroica, a trovare un camper e glielo portare. Sei riuscito, tu sei riuscito. Bravo Lucio, adesso però raccontaci cosa succede oggi, pronto, attento, vai. Il destino ci avvicina. Quel signore che fa i corsi online, io ce l'ho a 5 metri, lui abita all'ottavo piano e io abito al nono, e ti posso garantire che non ce la faccio più, però lo subisco passivamente, perché comunque quel signore di colore che fa i corsi online io ce l'ho giù a 10 metri, vedi che il destino ci fa ancora incontrare. Allora, dettaglia meglio, tu hai un insegnante, diciamo, di ginnastica da camera, da casa, da coronavirus. Sì. Quello che tu hai accennato adesso, che hai accennato... Sì, ma ce ne sono tanti, guarda, se vai su YouTube ce ne stanno tonnellate di corsi online. Perfetto, io ce l'ho a 5 metri. E lui trasmette da sopra a casa tua. Beh, non sei contento, scusa. È così, non devi nemmeno accendere la televisione, puoi fartela tranquillamente a casa. Ti ringrazio, il problema è che... Io vorrei aprire la finestra perché questa primavera mi piace molto, devo tenere tutto chiuso, tapparei la finestra perché tutto sommato è 15 giorni che continua e va avanti per un'ora. Cioè la finestra la puoi aprire, a meno che non c'è una finestra che dà su una strada frequentata da persone. No, non dà proprio sulla sua terrazza, io abito sopra di lui e lui fa questi corsi. Quindi online. È pure che lui ti manda il coronavirus facendo molta attività fisica. La sua fiatata atletica ti arriva con tutto. Vabbè, la notte apri la finestra, il giorno chiudila, che ti devo dire? Prova, negozia con questo signore, che ti devo dire? Era un modo per salutarti e per farti le mie congratulazioni per la tua trasmissione. Salutami tanto Fabrizio Intonti. Va bene, Intonti ci sente da il suo letto di dolore, cioè la casa sua. Io vi sto trasmettendo la casa mia, alle mie spalle la finestra sul mio cortile. Andrea da Roma, pronto? Sì, pronto, ciao, buongiorno. Vai, 30 secondi, che succede? Allora, guarda, io praticamente l'altro giorno stavo qui nel mio androne del palazzo, sto al piano terra, e a un certo punto sentivo della musica abbastanza datata, ed era il mio vicino di casa, cioè con il quale ho un rapporto particolarmente, diciamo così, un po' superficiale, aveva messo un bellissimo grammofono degli anni 50 sulle scale e metteva musica di Claudio Villa a cannone. E siamo usciti tutti quanti a sentire questa musica, lui orgogliosissimo del suo grammofono ci ha fatto sentire per un'ora musica degli anni 50 di Claudio Villa, bellissima, ma dopo un po' due maroni, vabbè. Tutto ecco, qui. Io volevo a questo punto prendo l'occasione, qua c'è stato malinteso il senso, diciamo, di solidarietà emotiva con il proprio vicinato. Ora, penso che la maggior parte delle case degli italiani siano dotate di strumenti di riproduzione di rumore, che male che vada abbiamo tutti un televisore, abbiamo spero tutti una radio, molti hanno uno smartphone, ma altri avranno delle casse, degli strumenti, certo, che producono musica. Certo. Non ci troviamo in una landa desolata con selvaggi che sono abituati a suonare lo zufolo a pelle e non hanno altro che improvvisamente gli portiamo il beneficio della musica. Perché dovete rompere i coglioni al vostro vicinato con la vostra musica del piffero? Mettetevi una cuffia, sentitevi quello che volete, non è il momento che chi strilla più forte fa felici gli altri. Certo, capisco, certo, che all'inizio sembrava che era tanto bello, ci sentiamo tanto affratellati che tutti alle finestre a cantare, poi abbiamo capito dopo una settimana che già il momento è difficile, già ognuno ha i suoi pensieri, già ognuno vuole stare tranquillo, anche quello che ti impone la sua musica, poi la musica di un estraneo non è detto sia la nostra musica, è qualcosa di fastidioso, quindi evitate di invadere lo spazio emotivo degli altri, a meno che non vi sia esplicitamente richiesto, ma lo trovo molto difficile. Lorenzo da Milano, sì, pronto? Buongiorno, Nicoletti, buongiorno, scusa. Vai. No, io parlavo solo, sì, abito qua in via Polama a Milano, no? E niente, la cosa più bella è che ho sopra me, siamo con un mio carissimo amico con due nipotini, e io la cosa più bella è quando mi sento gridare e correre, e io continuo a dire, dai Tommaso, dai che ti saluto. Eccolo, questo per me, anche perché ho una nipotina che purtroppo non posso vederla ed è lontana da me. E quindi con loro mi sento rivivere, sono una persona molto emotiva e quindi mi emoziona e questa roba qua mi dà molta gioia, molta. Va bene, Lorenzo, vedi, ci sta dicendo qualcosa che assomiglia molto a quello che dicevo all'inizio con la mia bella vicina star della televisione. In tempi normali avrei detto, ma come mai questa mi batte sulla testa, lo fa apposta, che fastidio. No, ma io non l'ho quasi mai. Ne sento la mancanza, quando non sento lei che salta sulla mia testa, mi manca. E tutto sommato ho fatto la riflessione, ma mi piace pensare che ci sia una bella ragazza ballerina che mi saltella sulla testa, mi dà un segno di vitalità, non mi dà nessun fastidio, la stessa cosa Lorenzo, sente dei bambini far casino, in altri tempi avrebbe protestato, e dice che bello, sono dei bambini vivi che giocano. Sì, ma non avrei protestato comunque perché ho avuto anche un bambino vivacissimo e quindi no, ma sicuramente no, è solo che io veramente per andare avanti, io ho 73 anni, sono qua da solo in via Bolame, guardo fuori e vedo la gente che passa e io non ho paura di andare fuori anche nel box sotto, per cui sentire loro per me è una gioia e la sera è una così, e dopo il sabato e la domenica e non li ho, è per me come se fossero i miei, capito? Questo Nicoletti è un'emozione che l'ho esternata anche a loro e tutti, ma veramente è una cosa molto bella. Molto quindi bella. Questi sono momenti in cui chi ha bambini anche un po' chiassosi, non bisogna abusare, potrebbe paradossalmente, se lo sapesse, secondo le modalità condivise tutto, far contento chi sta solo a casa, dandogli un po' di contatto sonoro dei propri figli. Mi chiedono con insistenza, vogliono sapere chi è la star sopra casa mia. Non lo so, non so come si chiami. È una delle belle ragazze che si vede in televisione ogni tanto. Non lo so, non ho mai avuto rapporti con lei. È un volto probabilmente per molti conosciuto. L'ho incrociata due volte nell'ascensore. Non mi interessa nemmeno violare la sua privacy. Fate conto che è una persona, un artista che ogni tanto mi salta sulla testa una volta al giorno, cioè alle 18 circa. E mi fa piacere, non mi dà nessun fastidio. Davide, provincia di Bologna, pronto? Pronto, sì, buongiorno, dottor Nicoletti, buongiorno. Vai, Davide, vai. In realtà io più che concentrarmi sul vicinato vorrei parlare un attimo del mio coinquilino, essendomi da poco trasferito in un appartamento relativamente piccolo di 60 metri quadri, comunque da quando è iniziata questa quarantena si è rivelato un rompicoglioni di prima categoria, non fa altro che trasmettermi ansia. Si prova la febbre 30 volte al giorno, prima da una parte e poi dall'altra, come se poi la febbre avesse una scella prediletta, diciamo. Pianifico pranzi per dire da qui a 6 giorni, oggi è venerdì, cosa mangiamo martedì? Pronto. Allora, questo coinquilino con cui ha una convivenza forzata, sì. Cosa siete? Compagni di università? Siamo colleghi di lavoro, diciamo, no, lavoriamo qui in zona e quindi abbiamo preso l'appartamento insieme. Ovviamente. Beh, lei già è fortunato che è già fortunato che non usi il sistema rettale per provarsi la temperatura, sarebbe più fastidioso. Ho capito, ma si prova la febbre. Finché se lo mette sotto l'ascella il termometro, tutto sommato può essere sopportabile, altrimenti più difficile da gestire. Per darle un senso di ottimismo, alla fine c'è sempre il peggio che ci aspetta. Vabbè, ma infatti io vedo il lato ironico del, ad esempio mi comincio a chiedere, ma quando è che finirà questa storia? Perché non trovano un vaccino? Che cosa ne posso sapere? Non lo sa chi. Quindi è lievemente ipocondriaco, la situazione peggiore, convivere con ipocondriaco in questo periodo, penso che sia un incubo. Ma no, il suo vicino non è preoccupato che lei si lavi le mani, mantenga il distanziamento, queste cose qua? Ma i nostri vicini in realtà ne abbiamo due che le ho detto come nell'intervento che si chiama trasferiti da poco, quindi li ho visti 3-4 volte, parliamo di una quindicina di giorni in cui mi trovo. No, io parlo sempre del suo convivente. Io le posso dare dei consigli molto borderline e molti ai limiti della legalità. Sì, lo devo. Ma lei potrebbe simulare, sì, lo devo lei potrebbe simulare dei sintomi di coronavirus. No, che è pericoloso, fatto, perché non bisogna fare. Già, e non è servito a nulla. Ho scritto fino agli occhi, dico che ho dei principi di congiuntivite, fingo di avere la febbre alta, alzando la temperatura. E rimane indifferente anche a questa provocazione. Lui mi sta a un metro, però non è possibile stare a un metro, quindi sono faccia conto che per lei il problema è più pesante di quello degli altri. Siamo arrivati a venerdì, un altro venerdì, un'altra settimana è passata. Ci sentiamo lunedì. Alla prossima.